che ho passato con te son brevi, brevi, brevi senza te. La luna chiara, chiara questa volta non c'è. La luna questa notte scura, scura come me. Dove sei non lo so, cosa fai non lo so. Dove sei senza me, cosa fai senza me. È una vita senza sole, senza te. Torna, io t'aspetto lo sai. So che mi porterai cieli limpidi, mari limpidi e poi liberi, saremo liberi, correndo sui prati bagnati dal sole. E lunghe, lunghe notti che ho passato con te son brevi, brevi, brevi senza te. Luna chiara, chiara, questa volta non c'è. La luna questa notte scura, scura come me. Dove sei non lo so, cosa fai non lo so. Dove sei senza me, cosa fai senza me. È una vita.